Luca, attento Luca, attento Luca, ci sei in ascolto? Attento Luca, attento Luca, ci sei in ascolto? Attento Luca, ci sei in ascolto? Natalino, ci sei? Ehi, ciao Giù, buonasera. Ciao, e stavo chiamando a Luca, avevo un problema qua, l'ho mandato anche un messaggio, ma evidentemente non ha letto il messaggio. Sarà coricato magari. No, può darsi, non so cosa dirci. No, perché ho dovuto resettare il baracchino, l'ho dovuto resettare perché ci sono uscito nell'altra banda e non riuscivo a rientrarci, sai, con questo tipo di coso che c'è. Ho capito. Non mi ricordavo come funzionava perché non ci vado mai là e dunque non mi ricordavo come funzionava e adesso già sono riuscito a bloccarlo e sono ritornato qua. E Marcolino pure le sa quelle cose, né? Ma siccome io ho l'istruzione, il libretto di istruzione, siccome ci sono tante sacche di cose, e per leggerlo è un po' lungo, l'ho dovuto leggere perché a memoria non me lo ricordavo come si doveva fare, perché non l'avevo mai fatto, l'ho fatto solamente una volta, due volte per provare, basta, ma niente di più, ma poi non l'ho più provato. Manco io non ci ho mai provato, figurati. Vabbè, adesso comunque sono ritornato qua, perché come stavo scambiando un microfono, siccome c'è il discorso che up down, no? Qua che cambiano anche i canali, e si vede che ho fatto corto inserendo il microfono e dunque mi si è spostato sull'altra banda. Sicuramente è così. E allora ho dovuto aspettare. Vabbè, vediamo un po' se risponde Luca, perché avevo appuntamento con lui intorno alle 5:30, 6:20, poi vado ad accendere e invece mi è successo un guaio. Allora ho cercato di risolvere e ci ho piegato un po' di tempo, però nel frattempo sono salito su e mi sono sceso un altro baracchino che l'ho voluto chiamare, l'ho chiamato ma non ha risposto nemmeno, ma adesso sono sempre con quello normale, con quello originale che uso sempre. Ho capito. O non c'è che magari ha avuto qualche problema, magari non c'è, non si può rispondere per quello. Prova a chiamarlo a vedere. Gli ho già mandato un messaggio su WhatsApp e ancora non l'ha letto, si vede che non l'ha visto, non lo so. Dimmi una cosa, io lascio un attimo la portata, perché stamattina stavo parlando e mi dicevano che avevo una leggera alternata, leggerissima, leggerissima, un rumore di fondo, non tanto un'alternata, un rumore di fondo. Io adesso ti lascio la portata solamente per 5 secondi e tu ascolti e mi dici se c'è ancora questa alternata che dicono, perché un altro, una persona mi ha detto che non ce n'era, uno invece mi ha detto che c'era. Vai. Dipende da come ti ascoltano, con quale apparecchio ti ascoltano, ma io non ne sento alternanza. Allora è vero, dai. Allora è quello che stavo pensando io, perché anche ieri sera c'era Gianni e mi aveva detto la stessa cosa, però sai perché? Perché aveva la colonnina esterna, ha attaccato la colonnina e dice che era pulitissimo, si vede che quella colonnina non era adeguata a quel tipo di cosa, di presa auricolare che c'è dietro nel baracchino, se no non dovrebbe fare nessun rumore. L'ha attaccato e mi ha detto tutto a posto, anche perché gli altri mi dicevano no, è pulitissimo, mentre lui mi diceva c'è una leggera alternata, invece non è vero, poi ha attaccato anche lui l'altro parlante esterno, l'ha attaccato e dice no, è pulitissimo, non c'è niente. Magari era l'altro parlante, infatti cosa ti ho detto io? E dipende magari con cosa ti stanno ascoltando la gente. Infatti è così, sicuramente è così. No, perché c'era Tommaso strano, non ho fatto niente, il microfono è sempre quello, il baracchino è sempre quello, ho solo cambiato. con la batteria, perché la batteria che c'era prima era una vecchissima batteria di anni addirittura ce l'avevo, e mi dicevano che mi avevano detto che era bassa del radio, ma io non lo sapevo, perché nessuno me l'aveva detto che era bassa del radio. Ho sostituito la batteria e dicono che la radio adesso è fortissima. Confermi che è così? Sì, forte la radio, chiarissima, bella. E allora sono contento, là. Tutto a posto, è detto in ordine. E infatti, tutto a posto è da mettere a posto. Tutto a posto è tutto da sistemare. Allora, fra 3 giorni vai a fare le vacanze, così. E devo andare a fare il pre-ricovero, devo andare. Poi mi chiameranno, là. Ho capito, beh, certo che ti chiamano, già lo credo. Tu per quello tieni il cellulare, tienilo acceso, perché ti mandano magari un messaggio, magari non ti posso neanche non parlarti, però ti mandano un messaggio, come hanno fatto a me tante volte. Io gli avevo lasciato il numero e quando mi hanno dovuto io chiamare mi hanno mandato anche il messaggio, senza bisogno di, però mi spiegavano chiaramente quello che dovevo fare, per cui non c'è stato mai problema, ho potuto fare sempre tutto quello che mi hanno chiesto. E ci hanno anche l'indirizzo di posta elettronica, infatti il messaggio mi è arrivato per posta elettronica, a me prima mi hanno chiamato e poi mi hanno mandato l'incartamento di tutto quello che dovevo fare, capito? Via posta elettronica, me l'ho stampato e via. Hai fatto bene, è così che infatti che bisognava fare, certo, perché alle volte loro magari non ti chiamano al telefono, ti mandano solo un messaggio e basta, tutto lì. Va bene, vediamo se c'è Luca. Luca, ci sei? Giusto, finendo, mi ti ho mandato una foto per stampare un paio di nominativi che devo spedire. Ah, ho capito lui, perché io sono salito qui in orario, no, come ti avevo detto, e poi invece inserendo il microfono si vede che ho concentrato un po' i contatti e me ne sono andato nell'altra banda, anziché andare nella banda, capito? E allora ho dovuto resettare tutto e non riuscivo a resettare perché non mi ricordavo come si faceva. Allora ho dovuto prendere il libro del manutenzione, di istruzione, e ho letto, ho dovuto leggere tutto quanto, perché è un bel lungo, e dunque poi alla fine sono riuscito a resettare, capito? Ehi, bravo, resetta. Ehi, bravo, bambino da lì, perché io l'avevo fatto 1 o 2 volte, solo per provare, ma sto parlando di almeno un anno e mezzo fa, il primo periodo che l'avevo comprato, questo baracchino, poi l'ho più fatto, e dunque a memoria non mi ricordavo come si facesse, perché qua, tu lo sai, è programmabile, no? Ma è un casino, infatti sono arrivato anche ai canali 60 addirittura, perché nell'altra banda vivo anche al canale 60, che è una bella, diciamo, banda larga, molto larga, parte da 28 e arrivi a 29, quasi a 30, insomma, però non riuscivo a rientrare perché non mi ricordavo il funzionamento, cosa dovevo fare, allora ho dovuto studiare un attimino. E almeno ti hai fatto una cultura giù. Più che altro un ripasso natalino, perché non mi ricordavo come si faceva, e allora meno male che ho il prontuario sempre a portata di mano, bene stampato, e dunque basta leggere lì e so cavarne tutte le funzioni che voglio, no, non c'è problema, ma comunque noi un po' di mia memoria mi sembra che sono una trentina di funzioni, vai due e ricordateli. E infatti, no, io non ci ho mai messo mano, la verità, mi sembra la prima volta solo e boh, però non mi ricordo più nulla, la verità. Perché non lo fai assiduamente, capito? E allora devi sempre dimettiti per quel motivo lì, perché non lo fai assiduamente. Se uno lo facesse sempre, tutti i momenti, o quasi tutti i momenti, è chiaro che ti rimangono impresse nella mente e lo fai subito, ma cosa lo fai a fare? Non c'è motivo, tanto se rimaniamo qua e basta. Allora ho dovuto per forza leggere il prontuario. Meno male che ce l'ho in italiano, perché mai due se ne ha di chichi di cui faccio un tedesco o francese, che forse altri due sono francese e tedesco. Ma ho una traduzione in italiano, per cui va bene così. Andà bene mera. Dice Luca sempre impignato, ma sarà l'uccidente la graviglia mia, chi l'ha tracciata a mezzodì? No, ma che buttare per Valenti, ma che tini sta imballando sta, ma che non imballano lui anche, a forza dei caffiotti, lui imballa Baracchini, anche il radio, non Baracchini, il radio, quando c'è per un compagno imballa l'aereo, a caffiotti. Vero è Luca cosa sta dicendo Giulio, non risponde, non ti dà udienza. Sì, di udienza che sta impacchettando bene, se no perde il filo del pacchetto, capito? E allora lui, perché domani deve fare la spedizione, grande spedizione, e soldi al rientro brecchi, e fa bene. Kappa. E beh, finito hai Luca, di imballare. L'ho venuto da qua, è un Natalì, non c'è sordo, più sordo di quello che non vuole sentire. E quelle sono parole sante, mi. È così, mi. Io non ho mai sentito uno più sordo di uno che non vuole sentire, non esiste. Quando lo vuoi sentire, vuoi essere tu, puoi sentire come cosa, come un uccellino, perché a 100 metri di distanza l'uccellino di media e fuggi, perché teme di essere preso. Non da là va, ed uno intende lo risponde, e dunque quasi vuoi del bar delle piante. Infatti. Vabbè, pazienza. Vabbè, stamattina in vacanza ieri. Come? Stamattina in vacanza. Sì, in vacanza. Non mi sentivo bene, Giuno. Stamattina abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Tonino e Tino. Eravamo sempre su questo canale, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fino a almeno oltre un'ora e mezzo anche forse anche due, non lo so di preciso, comunque una bella chiacchierata lunga ci abbiamo fatto, poi chiaramente ognuno ha avuto da fare e ci siamo salutati. Sì, già vi stavo ascoltando, ero coricato ma già vi stavo ascoltando, me l'ho acceso per farmi compagnia perché non c'era la 50 che era chiesa e quindi ero da solo qua. Ho capito, vabbè, ma se non ne avevi voglia è inutile stare lì a insistere, a chiedere lì perché non sei entrato, ma se non ne avevi voglia, se non stavi bene, non ti posso dire niente. E infatti non stavo bene, no, ero coricato, già mi sentivo lo stesso, però non potevo parlare perché è lontano l'apparecchio, capito, tra l'altro, quindi vi ascoltavo ma non potevo rispondere. Perché tu dovevi interpellare a Conte, il politico, che ti avrebbe regalato un lettino con le rotelle in modo da potersi spostare in qualsiasi punto della casa. Intanto quei lettini li hanno dovuti buttare anche, tra l'altro, perché nessuno l'ha trattati e abbiamo speso un sacco di milioni in Italia per comprare i lettini e i banchi con le rotelle, senza trattare da buoi. Figurati. Già siamo a Conte. A Conte, i Conte sembrano a Conte. Siamo più i Conte che a Conte. Vabbè, comunque. Allora, preparati tutto intanto. La valigetta, porta di tutto. L'attrezzatura per la barba quando vai. Così, poi lì. Come l'avevo fatto io, ma l'avevo portato tutto. La macchinetta del rasoio, insomma, le lamette col pennello, col sapone, e la mattina una bella sbarbata, tanto un tempo vero, non sapevi cosa fare, almeno quello facevi. E infatti già domani comincio a prepararmi tutto, già c'ho tutto, c'ho lo zainetto, c'ho che ci sta un bel di roba in quello zaino. Sì, buon tutto e via. Intanto il 23 comincerò a fare quegli esami lì, tanto già mi fanno tutto loro lì. E poi finito quelli ci sarà da aspettare qualche giorno e mi chiameranno loro per il ricovero, diciamo così. Infatti, subito dopo il ricovero ti chiamano, non ti credere che stanno molto a chiamarti, ti chiamano subito, non è che stai in TV, qualche giorno e poi ti danno un letto, portati tutto, il cellulare, il caricabatterie per il cellulare, il rasoio da barba, l'asciugamano, portati la carta igienica, perché intanto nei bagni la carta igienica magari ci può anche essere, ma alle volte non ce n'è. E l'asciugamano si sa, è sempre il bambino, sempre che non va bene, si scherzano punti tuo, personale, da casa tua, e quando vai in bagno che ti devi lavare, usi l'asciugamano tuo, tranquillamente. Il pigiama, è ovvio no, si la vuoi in casa, ti butti un pantalone corto e stai con i pantaloni corti, non c'è problema. E infatti, già ce l'ho con i pantaloni corti e lunghi, ne ho due di pigiami così. Appunto, quello che vai, puoi portare tutti e due, o così se hai caldo puoi utilizzare i pantaloni corti del pigiama, oppure magari il pantalone lungo se hai freddo, ma freddo non ce n'è lì, non ce n'è freddo, stai tranquillo. E cappa, troia. Allora, Rue 2 era lì 23, che mi tocca Sarasuro, in Chivi, Bagosa, sarà roba lunga, penso. Lì, la mattina, a meno che non sei i primi numeri, perché ti chiamano quando sei lì per fare il pre-ricovero, ti chiamano, fanno l'appello, fanno, no? E di volta in volta tu ti portano dentro, ti fanno il prelievo del sangue, ti fanno e ti controllano, eccetera eccetera, e poi da lì appena che ti danno il risultato, cioè ti danno, dopo che ti hanno fatto il prelievo ti mandano davanti, quando esci da quella stanza lì davanti c'è la cosa della, come si chiama, per fare controllo al cuore, c'è lì, c'è la cardiologia, e ti vuole, e anche lì deve fare la fila, e purtroppo è così, in ospedale è così, non ve ne stressano in ospedale. E infatti, deve essere cosa ronda, infatti, gli ho detto a quell'amico che mi deve accompagnare lì, che andarsene, poi quando ho finito lo chiamo a riportarmi a casa, capito? Così quando usa di fare così su, si rivasi e via. Certo che sì, gli alluvio. È così, comunque. Già non lo. Così almeno ti sistema, non lo vuoi abbastanza, non se ne parla più, cara Cristina. Così non ti sentono più dicendo che mi sento male, mamma mia, quanto è feo. Quanto è feo in quelle condizioni, allo so qui a paccare dai. Sì, feo su, lui è giù. È un calvario, da Pasquetta sono così io. Purtroppo è così, Natalia, io l'ultimo ricovero che mi hanno fatto, mi hanno chiamato dopo 6 mesi, ti puoi immaginare, però dopo il pre-ricovero mi hanno subito chiamato, dopo un paio di giorni mi hanno subito chiamato, però il discorso è quello, bisogna che ci siano liberi qualche letto, no? Perché quando vai là ti danno un letto, ti danno, no? Dunque se non vedo un letto non ti possono ricoverare, appena che si libera, il primo letto che si libera ti chiamano e tu sei tranquillo. E infatti Gesù, è così. Mi avevano detto quando mi hanno fatto la cistoscopia che c'erano liste fino a 2 mesi, invece mi hanno chiamato subito. Deve essere a Canivicio che è urgente la storia. Mi hanno chiamato proprio dal reparto lì. Mi hanno mandato l'email e adesso vado a fare il pre-ricovero. Infatti ero dimenticato, passare 2 mesi mi do casi tra me e me. Infatti è così, ma poi non è. Ti chiamano subito, una volta che prendi il ricovero, pochi giorni, ti chiamano subito, vai a farti le vacanze, vai. Vai a riposarti. Sì, è vero, mi in vacanza me ne vado. Sì, sardo qua. Però sta attento, da capitini, li finire da capitini, non è corteggiare. Sì, cosa corteggiare? Dopo l'intervento, che mi sento bene, allora le posso corteggiare, sì, se sono carine sempre. C'era Brigido che stava chiamando, avanti Brigido, Manuele. Sì, sto aspettando, dai, lo sto preparando per il lavoro stanotte. Ah, di notte sì, stanotte. Sì, 10:30, pensa come a Marzano. Anda bene Meda, affetta. Ti ascolto, dai. Ciao Manuele, se mi senti ti saluto, io non ti sento bene, sento che c'è un mormorio sotto, però non capisco quello che stai dicendo, comunque va bene lo stesso, so che mi senti e mi fa piacere salutarti. Bene, sono la mia Catalina, adesso che deve andare in vacanza, non voglio che diventa troppo intraprendente con l'infermiere, capito, Manuel? Perché già lo sai, è Monello, Natalino Monello. Mica ti saluta Manuele, Giulio. Manello no, un po' birichino, va. Birichino? Vabbè, dopo vengono e ti salutano. Vengono. Ciao Manuele, se mi stai ancora ascoltando. Ci sentiamo magari in condizioni migliori, come l'altro giorno che ti sentivo bene. Stavo dicendo, Natali. E poi vengono le infermiere con la mametta e ti fanno una bella rasatura. Ti rasano, no, Natali. Dalla pancia presa a metà gamba. Completamente. Ti fanno liscio, come un bambino neonato. E mi ero rasato io per la... quando ho fatto la cistoscopia, mi ero già rasato io. Vabbè, in quel caso lì non ce n'era bisogno, ma quando vai in sala operatoria ti vogliono lisci, capito? Perché chiaramente è giusto che sia così. Ti rasano, incominciano dalla metà della pancia, la parte bassa sino a metà delle gambe, perlomeno bello liscio sino a quasi alle ginocchia, anzi senza quasi, così mi avevano fatto a me. Vabbè. Boh, vediamo. Appunto, perché non c'è problema, non problem. Roia. Adesso vediamo come va la Asturia il 23. Solo che a stare lì tanto tempo a me mi rompi i cazzi. Lo so, Natalino, l'attesa sembra un po' noiosa, però ci devi stare tranquillamente. No, ma cos'è? Magari nei giorni feriali va anche bene, diciamo. È più critico nei giorni festivi, quando ad esempio la domenica, se ti capita di rimanere lì la domenica, il sabato sera per dire la domenica, lì c'è meno movimento, ma negli altri giorni già c'è più movimento, cioè, perché la domenica c'è anche, diciamo, forse meno personale, cioè, cosa di una puttina, se ne vai in giro e parli con gli altri, che ci sono le altre stanze, no, non c'è problema, Natalia, è il tempo trascorre lo stesso. Ah, quello sì, però io stavo parlando di quando devo fare il pre-ricovero, mi rimani tanto tempo in chibimi. Ehi, noi che stai, puoi prendere una mattinata, noi che stai giusto accanto all'alino, puoi prendere una mattinata, cosa te ne frega, quello non è un problema. Puoi fare magari che so io anche le due, non è un problema. Capita. A proposito, guarda che devi andare senza mangiare niente la mattina per fare il prelievo, senza mangiare niente, casomai dopo il prelievo, loro se abbiamo tenuti, o che via è quella, c'è il mare e puoi andare lì. Già lo so, ma io non posso camminare, mi porterò una brioche, qualche cosa, perché io prendo le pastiglie per il diabete, devo mangiare fai fuzza, però a camminare, capita vazzi. È vero, è appunto. Comunque io ti sto già cercando di avvisarti tutto quello che devi fare o che ti fanno, in modo che tu ti trovi sempre pronto, capite? E mi porterò qualcosa, da, non c'è problema, dopo il prelievo del sangue. Le pastiglie le posso prendere, però non puoi mangiare finché che non ti passi nel prelievo, è visto il discorso. Mi pare che manco bacigli, biglio. Quella della diabete non la prendo, la prendo dopo che mi hanno fatto il prelievo. Le altre prendo solo, quelle per la pressione. Ho capito, sì, sì. Sì, come, perché come cibo, da mezzanotte in poi non puoi prendere niente, fin quando non ti fanno il prelievo. Ho capito, per cui la notte fai la cena, la fai e basta, ma dopo la mattina colazione niente, la fai dopo che ti hanno fatto il prelievo. Sì, infatti. Faremo così. È così sia. Bisogna andare tranquillo. Lo so, è snervante questo, la pesa è fastidiosa, tutto di voi, però se vuoi stare bene devi anche sacrificarti per la pesa, non c'è problema. Speriamo che ci siano sedie per sedermi. Certo che ci sono le sedie, capita, voi non bisogna, soprattutto dove vai a fare cosa, c'è una sala tutta piena di sedie, per cui il posto già c'è, e poi se c'è qualcuno che vede che è un po' giovane, glielo dici, guarda, fammi sedere e fare la corteria perché io non ce la faccio più a stare in piedi, se ne voglia qualcuno giovane, ma quando vai in una sala dove devono farti il prelievo, dove fanno l'appello, ti fanno l'appello, sei seduto e ti fanno l'appello, ti fanno entrare dietro nel retro di quella sala e lì fanno il prelievo. Andrà bene, Mela. Vabbè, comunque, avanti ai dubbi, io 50 euro per l'informazione. Commenti di voi, sonanti o contanti giù? No, io voglio giocare l'agnone, lo voglio. Luca, vai a segnare un'ora che ti muovete in ballaggio, io hai poco lungo. Che ci rucca lungo, che era mese di maggio. Puro più lungo del mese di maggio, no, non è possibile. Luca, io hai poco lungo, siete in ballaggio. Consegnato la valigia, perché l'abbiamo buttata a piedi io e l'abbiamo consegnato direttamente in mano a comparato. Questo Luca non risponde, non ci dà udienza, che meno male che caglia a vita un'altra lì, vabbè, te lo sono contenuta che tu non sei sportivo, non ti piace lo sport, però almeno se non altro rimane Serie A, perché questa vittoria era fondamentale che vincessi oggi. Almeno è contento mio padrino che è di quella squadra. 2-0 ha vinto. Perché era una concorrente per la retrocessione. Dunque è riuscita a vincere per fortuna fuori casa in Emilia Romagna. Per cui ha vinto 2-0 con Sassuolo. Se perdeva retrocedere, magari poteva retrocedere. Adesso anche se dovesse perdere con la Fiorentina la prossima partita, non fa niente, intanto ormai è salva perché ha più punti delle ultime tre, perché ne scendono tre, ne scendono Salernitana, Empoli e Sassuolo. Sassuolo è rimasto a 29, è rimasto il Cagliari a 36, sicché anche se dovesse vincere o perdere il Cagliari e vincere Sassuolo, da 29 parte a 32 e dalla 36 sicché è salva, per quest'anno si è salvato. Meno male. Sì, meno male. Vabbè, almeno quello si è salvato. In Sardegna, noi che vogliamo fare grandi cose, perlomeno una squadra in Serie A ce l'abbiamo, dai. almeno una. Infatti, adesso vediamo un po' che cosa succede con la Torres. Se dovesse vincere il playoff, magari può anche salire in Serie B. Sarà molto difficile, io non ci credo che possa farcela, però si è qualificata seconda in campionato, adesso fa il playoff e potrebbe anche salire in Serie B. Speriamo, speriamo che vinca. L'altro giorno mi ha telefonato, a proposito di calcio, mi ha telefonato Roberto, che devono fare la festa della squadra, no? E stava cercando a mio fratello e voleva il numero e gliel'ho inviato, capito? Ah, ho capito, sì, sì. E anche a me mi ha chiamato, mi ha invitato alla festa che si farà il 15 giugno. Fanno la festa e 75 anni mi sembra di squadra che hanno, dal 49, quella squadra lì era nata nel 49, se ricordo bene, non pare sono 75 anni, una cosa del genere. Sì, mi ha invitato a me, devo andare a prendermi l'invito, così almeno non devo fare fila, non devo chiedere niente a nessuno. Vado con il biglietto di invito, mi ha detto vieni a prenderti l'invito, così mi fa piacere che vieni. Vabbè, io sono contento che lui si è ricordato di me. E diciamo, vedremo, speriamo di sentirmi bene, naturalmente, perché dai, le butti, non si sa mai. E infatti, siccome mio fratello ha giocato in quella squadra, e allora stanno cercando tutte le vecchie leve di quella squadra per la festa, e gli ho inviato il numero di mio fratello. Sì, sì, sì, così va bene, sì, no, io in quella squadra non ho giocato, ma ci ho giocato contro, però quando giocavo al calcio ci giocavo contro quella squadra lì, però lui sa benissimo che io mi sono sempre interessato di sport, di calcio soprattutto, per cui mi ha invitato, è stato molto gentile nei miei confronti, e dunque devo andare a prendermi il biglietto d'invito. E infatti mio fratello ha giocato proprio in quella squadra, capito? Lui, mio cugino Natalino, lo stesso, giocava insieme a Angelo, mio fratello, in quella squadra. Bene, bene. Mi dovevi arrivare a dormire. E beh, imballato hai. Imballato. Ah, no, non sei Luca? No, sono già. Buonasera. Ciao già, no, è perché stavo aspettando a Luca che stai imballando, è tutta la sera che stai imballando, ma ieri anzi, e ancora non ve l'ha fatta fare che bacchetti. Ciao già. Ciao Giulio, ciao Natalino, non so se ci sia qualche domanda, dai, io c'è da adesso, perché prima stavo facendo un po' di cosa, di cartigno. Ciao Gianni. Ciao Natà. E allora, e quindi c'è la festa della guida? Sì, stava cercando, Roberto mi ha chiamato che stava cercando il numero di mio fratello perché ha giocato in quella squadra. A Natalino non lo trova perché abita a Cagliari, è sposato a Cagliari Natalino, mio cugino. Io ho qualche libro, a me mi aveva dato anche il libro della storia della vita di Roberto. Vabbè, con Roberto noi siamo molto amici, per cui non c'è problema. Insomma, Roberto, non è difficile essere amico, là. Glielo credo, glielo credo, effettivamente così. Uno dei pochi già, uno dei pochi, vabbè, comunque, non c'è problema. Adesso vediamo il 15 di coso. L'orario non lo so, ma intanto devo andare a prendere il biglietto d'invito, per cui così ci andrò uno di questi giorni, mi faccio una passeggiata e vado, così mi dà il biglietto, c'è il biglietto, mi dà l'invito, non il biglietto, l'invito. E intanto è vicino a casa tua, no? No, la festa si fa all'Astra, al cinema Astra, sicuramente viene proiettato teatro, no, si fa all'Atra, al cinema Atra, che poi oggi è un teatro, no? L'Atra è un teatro, non è più, oh, vabbè, è un bel locale, avevano rimodernato, l'avevano, non so, di fronte a San Giuseppe, insomma, alla chiesa di San Giuseppe. Un attimo di bianco, che c'è qualcuno che chiama, va di chi chiama Gianni, e avanti, sì che ti ascolto, Franco sì. No, no, arrivi, tranquillo. Santiago di 5, la radio è 3, dai. Avanti, c'è Giulio Natalino, li ascolti? Kappa, fra, dai. Vabbè, ti risaluto da parte tua. C'è Franco Stazione che è a Tramariglio e vi saluta, però non vi sente. Vede, quando andate, come fate a sentirmi? Ciao Franco, se mi stai ascoltando. Adesso può darsi che mi senti. Io a te non ti sento. Niente, silenzio assoluto. Vai, ma andata lì. Manco io lo sento a Franco. Va bene, riprendi Gianni. Ciao, Franco, l'hai sentito a Giulio? Cappa, adesso scendo col Galassi, liscio, non c'ho nulla, scendo con il Galassi. Vicente ha detto, però non capisce cosa dite. E io sono con due razzi, cosa pretendi? E alzalo. No, cosa lo alzi? Franco, a te buona piombo, sì o no? Non mi senti, no? Eh? Brutto monello che non sei altro. Fra, l'hai copiata giù, non ti sentono. Franco, meglio per te che non ti hai abbattuto le orecchie stamattina. Allora è colpa tua, non colpa mia. Ma se non si fosse abbattuto le orecchie l'avrebbe sentito manco a me. Franco, dove sei adesso? Capocaccia, Tramariglio, quella zona lì, ho capito. Sei Girella? Cappa, saluta tutti i componenti della tua automobile. Cappa, dai, facciamo girare, avanti Natalino. Cappa, dai, riprendo io per salutarvi. Comunque vi ascolto che devo mangiare adesso. Al limite, se ci siete, già introdotto. Va bene Natalino, io fra mezz'ora ci porto il cane giù e poi risalgo. Non lo so se riaccendo. Vabbè, buona carica se non la fai, avanti Giulio. Ok, d'accordo. Ciao Natalia, allora ci sentiamo. Buona serata. E stai tranquillo, no, non pensare a niente. Pensa solo a mangiare a B e bu. E sei tranquillo. Sì, già, vabbè, io ho l'antenna bassa già, magari non so se lui mi sentiva, ma se secondo me è chiaro che non riesce a sentirmi. Anche perché glielo ho detto, non so se mi ha sentito, che non si è abbattuto le orecchie stamattina, ed è per quello che non mi sente. Lui c'ha la Turbo 2001, quindi è una buona antenna. Io da Alghero, da Fertilia, sentivo tutti ma bene, però, e mi sentivano a Santiago 8 da aeroporto. È strano, perché in queste condizioni mi sento una berchita, pensa un poco, mi sentono, pensa, e lui non mi sente lì a Tramariglio, vabbè, una posizione può essere diversa dall'altra. L'altro giorno con due vatti stavo parlando con Leone di Itri, ti ricordi Leone di Itri, quello che parlava insieme a Tonino di Usini e a Serafino, il pastore di Usilo, ti ricordi? L'ho sentito l'altro giorno, poi il punto in bianco è sparito, forse gli era successo qualche cosa al baracchino, non lo so. Sì, l'ho copiata anch'io Giulio, anche con me ha parlato, l'ho copiata anch'io. Franco, dove ti trovi? Attenzione Franco, ma non intendo manco più io, ho aspetto. Secondo dove si trova? Dimmi una cosa Gianni, la radio già è forte, no? Perché fino a ieri avevo la batteria a scarica, se non me l'avessero detto che era bassa la radio non avrei ancora cambiato, invece l'ho cambiata ieri sera la batteria e dice che è diventata una bomba, vero? Ma io te l'ho detto dall'altro giorno che ti sentivo tutto strano di radio, te l'ho detto, tu mi hai detto che era da me, invece io gli altri li sentivo bene, ma non ho voluto insistere, non ti avevo più detto nulla che ti sentivo sempre così. Adesso ti sento meno chiaro, io ero un grido, è la batteria che era sottoalimentato, l'apparecchio è normale che usciva così. Sì, in effetti, anche perché tu non ci crederai già, questa batteria ce l'avrò usata per almeno 3 anni, strano che una batteria possa durare così tanto, per cui, vabbè, non è che ho fatto queste grandi modulazioni come una volta, però, per dirti, infatti l'ho misurata, non ha nemmeno 4 volte, figurati, da 4 volte, da 9 volte che deve essere, non arriva nemmeno 4 volte, 3 volte e mezzo, una cosa così, con la batteria, l'ho provata col test. Forse io ce l'orecchio fino e non mi tradisce il mio orecchio. Ho provato con filtro, riuscivo un po' a chiarificarti un po', però tu mi hai detto cambia la colonnina è una colonnina apposta per apparecchi CB, è della Midland, è una colonnina che si addice a tutti gli apparecchi. Vabbè, io non ho voluto insistere, però era gracchiante la radio. Ho detto, o dipende dalla sua voce, perché a volte è rauco, oppure, boh, non lo so, qualche cosa che non va c'è. Non c'era spinta di tensione, di batteria, ed è per quello. E allora, vabbè, comunque, adesso abbiamo rimediato. Ma se non me l'avessero detto, perché dice, ma stai uscendo con il microfono normale? No, sto uscendo con l'NB più 4, come sempre. No, dice, sei bassissimo. Vabbè, allora ho pensato alla batteria che non è più in condizioni di poter trasmettere. E allora l'ho cambiata, perché ce l'avevo già da un bel po' di giorni qua, però non l'avevo mai cambiata, visto che stava sempre funzionando, però nessuno mi aveva mai detto che la radio era bassa. Con questo a Lecce mi hanno sentito più forte che col Kirkwood, immagina. Lo credo, e perché no? Non c'è da meravigliarsi, bisogna vedere anche dalla condizione del momento, già, perché anche da un momento all'altro, anche parlando di qualche minuto, può esserci differenza, dipende sempre anche dalla propagazione. Io ho parlato con tutta la Bassa Italia, addirittura in FM, con 2 watt appena, e non ci credevano che io ero con 2 watt, ma in realtà io ero con 2 watt in FM. Capo, aspetta che c'è Franco che ha detto eccomi, avanti Franco. Capo, dai, Franco vi saluta, non so se l'hai sentito io. No, non ho sentito, non arrivo ancora qua, ancora è lontano, non. Fate sentire fra, alza la voce. Va bene, dai, se non ci arriva pazienza, ci sentiremo in un altro momento. Dove sei fra adesso? Stai andando a Alghero? Ah, sempre lì sì. No, io ieri ero a vedere Noemi a Porto Storgio, ma c'era il mondo. Non ho capito perché Tesla l'ha abbagliato mentre parlavi, dimmi fra. Vai a Porto Storgio che c'è la festa pure. Se ti vuoi mettere in mezzo al casino, mamma mia, è pieno di gente, trovare un parcheggio, abbiamo avuto la fortuna a trovare parcheggio ieri. Se ne stava andando uno mentre arrivavamo noi, guarda, abbiamo avuto una fortuna sfacciata, era pieno, zeppo, non c'era un buco. Poi abbiamo avuto la fortuna che c'era anche noi e siamo rimasti a vedere il concerto. Un bel concerto ha fatto, sì. Diciamo coinvolto il pubblico eccetera, sì no, una brava cantante, poi è completa, sa suonare chitarra, sa suonare pianoforte, ha fatto pezzi anche di Vasco Rossi, poi lo spettacolo alla Torre Aragonese, avanti giù. Ok, chiedi se mi senti adesso, se si è spostato o se è sempre nello stesso posto. Franco, mi senti? Franco, l'hai sentito a Giulio che ti ha chiamato? Non ti senti giù? Vabbè, pazienza, non fa niente. Non fa niente. Per cui andiamo avanti lo stesso. Vediamo se Luca riprende. Perché poc'anzi si è fatto sentire che mi ha detto sto imballando, appena io finisco rientro, e invece non è rientrato. Luca non riprende. Luca! Vabbè, là, pazienza. Stamattina ero con Tonino, ero su questo canale. Gianni, con Tonino e Contino anche, abbiamo fatto 4 chiacchiere, non ero entrato nessun altro. Ma io c'avevo gente a pranzo, dovevo cucinare, fare, capito? C'avevo 2 persone invitate, quindi non ho potuto fare a meno di cucinare, di fare. E niente, E fino all'una ero impegnato, perché prima ho portato il cane, poi pulito gli uccelli, poi pulito un po' la casa e poi ho cucinato, quindi ero impegnato tutta la mattina. Beh certo, quando c'è da fare la casa, il baracchino arriva, rimane sempre in un secondo piano, ci mancherebbe altro, di alluguino, prima le cose che portano la casa, poi il baracchino, già c'è tempo per il baracchino, e i momenti migliori, dai, i momenti senza impegni di famiglia, eccetera. Infatti. Vabbè. Quando io posso entro volentieri, perché la passione ce l'ho, però sempre ci sono le priorità, le cose, è giusto che sia così. Certo, vorrei vedere, capita, sarebbe proprio da fresci lasciar prendere le faccende di casa per il baracchino. Il baracchino si usa quando è possibile usarlo, a casa è necessario che uno sia sempre presente, qualsiasi momento e su tutte le cose, ci mancherebbe altro, di alluguino. E Marco Codolo non ci è sentito stasera, io di solito lui come vede il sole esce come tirighette. Ma può essere che sia andato a Platamona a prendersi il gelato, come fa sempre lui, no? Non si è sentito comunque, perlomeno io ho acceso che erano le 7:15, 7:10, una cosa del genere, dai. Veramente avevo l'appuntamento alle 5:30, 7:20 con Luca, che avremmo fatto questo, e invece sbadatamente mi avevo scombinato il baracchino, e allora ho dovuto resettarlo, perché ero capitato, cioè ci sono uscito dalla banda del 28 MHz fino a 30, dai, quasi. E allora non riuscivo a resettarlo perché non mi ricordavo la combinazione. Ho dovuto leggere il libro di istruzioni, appunto, proprio per poi rientrare in 27, come solitamente faccio. Dai. A me quegli apparecchi sono antipatici per quello, perché secondo cosa tu mi esci fuori, non è sempre di lunga, ogni volta è così. Quando sono così digitali è quella la ragione. Mentre questi vanno a girare una manopola e fatto il gioco, spingi un dato, gira una manopola e fatto, invece per i digitali sono menu, sottomenu, ISO, il dato, manca e dai, ne avevo uno così, l'ho dato perché non mi piaceva. Addirittura quello lì si potevano aumentare in watt, stesso nella programmazione c'era una dicitura che aumentava in watt. Sì, quello col cavetto al computer si deve fare, ma questo io l'ho sempre lasciato originalissimo come doveva essere, solo che io infilando il microfono l'ho infilato male, ho fatto cortocircuitare i contatti e allora ci è uscito in quell'altra frequenza lì, in quella banda. E allora ho dovuto resettare perché l'avevo fatto una o due volte, ma sto parlando di tanto tempo fa e non mi ricordavo più com'era la combinazione. Allora ho dovuto prendere l'opuscolo e leggere dall'inizio sino alla fine per capire come dovevo fare. E poi quando l'ho resettato è come qua adesso. La mia macchina è la stessa cosa. Bisogna resettare quando ci sono, per dirti, segnala che ci sono le gomme sgonfie, poi devi resettarlo, devi trovare i tasti per resettarlo. Qualche volta mi sono dovuto affidare alle istruzioni anch'io perché non mi ricordavo com'era. Ci sono diverse funzioni, capito? Tu devi destreggiare con i tastini e fare. Sì, e quello anche nella mia macchina, nonostante che è una macchina ormai di tanto tempo fa, anche quello, quando ad esempio se io stacco la roba e cambio la batteria, ad esempio, no? Tutto viene resettato da zero e poi a rimettere in ordine tutto il computerino, la data, la temperatura, il chilometraggio, tutto, è poco non è difficile. Infatti l'altro giorno sono stato più di un'ora seduto nella macchina proprio per cercare di sistemarlo, poi alla fine già ci sono riuscito, anche perché sono delle cose un pochino complicate, no? ho fatto tentativi, ma poi alla fine ho capito come funzionava e alla fine sono riuscito. Se ho messo l'orario, il chilometraggio, la percorrenza che faccio, il consumo, tutte queste cose qua, la temperatura esterna, tutte queste cose qua, no? Ed è un po' complicato, perché devi fare attenzione quando cambi la batteria, devi fare attenzione a non perdere mai il contatto, perché sennò ti frega il computer, perché si resetta, capito? Lo so, quando cambi la batteria per forza devi staccare i borsetti, a meno che tu abbia un'altra batteria e l'attacchi, ma dopo va 24, quindi non puoi. Vabbè, comunque, tu quanti anni ce l'hai la macchina? Quella io sto parlando della C3, non l'altra. La C3 io ce l'ho 15 anni a giugno, sì. 15 anni, sai quanti chilometri ha ad anni? 43.000, quasi 44.000 chilometri. È nuova, fiammante, però ha 15 anni di vita. E giù, allora tu la cicla di distribuzione l'avrei già fatta. Perché ho usato molto il motocarro quando lavoravo, ho usato molto il motocarro, viaggiavo col motocarro per anni e anni, il motocarro l'ho tenuto 35 anni, io la macchina la lasciavo praticamente sempre parcheggiata, adesso che sono in pensione esco poco e niente, sicché la macchina è sempre così, è purtroppo così. Mentre l'altra addirittura ha già superato come chilometraggio, è stata superata, ma quella la usa anche molto mia figlia per andare al lavoro tutti i giorni, per cui l'altra è la Eco Ford, Eco Sport, no? Quella lì, 1016 di l'altra, una specie di, non è un SUV, ma quasi, dai, è grande. Sì, ho capito. Cosa ti stavo dicendo, tu gliene hai fatta la distribuzione a quella macchina? No, si è fatta appena 40.000 km, la distribuzione si fa intorno di 80-90.000. No, più, non è così. Anche io pensavo fosse così, ormai mi hanno chiamato dalla Fiat, la mia ne ha 34.000, mi pare, i chilometri. Mi hanno chiamato dalla Fiat che devo fare la distribuzione della macchina. E ho detto, guardi che sta sbagliando, io ho 39.000 km, a quando ha accettato 80.000 km, gli ho detto no, o è a chilometri oppure a 6 anni di vita si fa, se no se si spacca fa un danno di 2.000 euro, quindi le conviene farla. Sì, ci vado, ma vado da Franco, sono andato da Franco e mi ha detto guarda già, per tutto il mese sono impegnato, chiamami il prossimo mese e la facciamo, perché vuole fatta, c'ha la ragione, e ho anni oppure praticamente a chilometri. Ma forse le macchine moderne di oggi sono così, non lo so già. Io so che quella distribuzione, per quella macchina che ho io, si deve fare intorno ai 80.000 km più o meno, forse qua da 70.000, ma ripeto, va per 44.000, non ci arriva a 44.000, 43.700 spiccioletti, per cui non credo che debba fare la distribuzione, perlomeno in quella macchina che ho io, no. Poi, non so cosa dirti, bisogna che chieda anch'io a Franco. Guarda, a me Franco me l'ha confermato, mi ha detto, ne avresti dovuto fare a 5 anni, la tua c'ha già 6 anni, ne avresti dovuto fare a 5 anni, sei già stato fortunato che non ti sei rotta, perché i materiali che usano adesso devono essere più deboli di prima duravano le cicche. Addirittura a me quando me l'ha cambiata nella Opel, mi ha detto, guardi, se non fosse stata che aveva tutti questi chilometri, non l'avrei dovuta cambiare, è nuova, ma la Opel mette materiale con tra cavoli. Ma io l'ultimo intervento che ho fatto dal meccanico è che mi ha cambiato la pompa, il galleggiante, dai, la pompa della benzina, non la pompa, il galleggiante della benzina, quella che è attaccata al serbatoio, che è sotto il sedile di dietro, perché sentivo odore di benzina, quando spegnevo il motore sentivo odore di benzina, ho telefonato a Franco, così e così, portamela subito, dice, perché è pericoloso, perché se ti cade la benzina sulla malmita può incendiarsi la macchina, perché evidentemente c'è il galleggiante che vuole sostituito, che perde, e così è stato, e gliel'ho portata, ma ha controllato tutto e era tutto a posto, dunque per distribuzione, anche perché io lo vedo, la cinghia è nuova, la cinghia della distribuzione. Io c'ho un amico mio, mi ha chiamato da via di Sicilia e dice l'ha fermata la macchina, cioè poteva andare a trenarlo perché come andava a mettere in moto sentiva il rumore di ferraglia. Ed era andato due giorni prima alla Fiat e gli ha detto no, ne hai ancora da fare di chilometri. E quando gli si è rotta è tornato e gliel'ha detto, io l'ho detto che la volevo portare, mi hanno detto che ancora ne avevo chilometri da fare. Non gli si è negato una pizza, ha detto, guarda, questo qui me l'ha detto, no, io non ti ho detto nulla. Miserabile, te ne immagini, si è pagato 2000 euro di motore perché ha buttato un valvolo, ha fatto un casino. Mentre invece per l'altra sono andato a fare il tagliando alla Ford, questo lo risale a circa 3 mesi fa più o meno, e dunque hanno controllato tutto e alla Ford non mi hanno detto niente, però quella, la Ford ha 4 anni e mezzo là, di vita, e ha intorno ai 45.000 chilometri più o meno, così ho già, ma non mi hanno detto niente, ho pagato il coso, il tagliando, ho pagato, hanno sostituito l'olio, hanno sostituito tutto quello che c'era da fare, no? Per cui hanno svegliato quasi 400 euro, una cosa del genere, 380 se ricordo bene, e però non mi hanno detto niente, me l'avrebbero detto loro, guarda che c'è da fare anche la distribuzione, e la macchina quella lì è nuova, lascia stare la mia che va 15 anni, ma quella lì, quella che usa mia figlia, è nuova, 4 anni e mezzo. Anche quella lì a 5 ore ne devo fare la distribuzione, poi basta guardare su internet, vai su Google e scrivi ho una macchina che ha tanto di chilometri, ha 5 ore di vita, quando devo fare la distribuzione, e te lo dice. Sì, anche quello è vero, Google ti può informare di tante cose che magari a uno necessita sapere, certo che sì, però non ci ho mai pensato di chiedere queste cose qua su Google. Giù, guarda che anche io ero meticoloso con la macchina, la cambiavo ogni 70.000 km da Cina, l'ho cambiata 3 volte alla Opel, però non avevo mai saputo che si faceva o a chilometri oppure anni di vita. Questa roba qua io l'ho sentita ultimamente perché mi hanno chiamato dalla Fiat e mi hanno detto guardi che deve fare la distribuzione perché la sua macchina ha già 6 anni, e l'ho detto ma la distribuzione, ma siamo cazzo già 34.000 km la macchina mia, non è che... E mi ha detto no, non c'è nulla, o è anni oppure a chilometri, quindi vedo lì quando venire, però per il momento non la faccio, sono andato da Franco, gli ho detto, mi ha detto Sicilia è così, bisogna farla, anzi avresti dovuto farla prima a 5 anni. No, non so cosa dirti, la prima cosa che sento Gianni, perché io ho sempre fatto sempre intorno ai 70-80.000 km, tutte le macchine che ho avuto le ho sempre fatte così, adesso se è cambiato e se in queste macchine più moderne, diciamo, la mia non puoi tanto molto tanto moderna, se è cambiata non so cosa dirti. Alla prima uscita che faccio mi fermo da Franco e chiedo anch'io, così almeno evitiamo in tal caso se dovesse succedere qualcosa così di quel genere, vediamo di no. Comunque appena che capito lì in città chiedo a Franco, cioè perché si svelano, capito, col tempo, siccome